avevamo comprato quel terreno, cazzo. Stavamo pagando al banco in Sardegna e rate, cazzo. Però mai appena ingorrato di un'altra, abbiamo fermato la cooperativa lì, la pettine loro, cazzo. Però male, ha offertato anche il registrato in tribunale, c'è anche all'età al comune. Abbiamo portato tutta la documentazione al comune di Sorso. Cazzo, la borga prima di spaccare ho dovuto fatti fare tutti i documenti, ecco che con la consistenza. E poi ci hanno denunciato, ho pagato anche la multa, ho fatto un bel minuto a pagare. E qui siamo stati denunciati, un casino. Allora, alla porta, anche boh, io farò male, non la rubino. Una questione, quelli erano i vici delinquenti che verranno in prima erano. Che hanno fatto il pari tutto canto, ci hanno incasciato le dinastie, ci hanno incasciato, ecco cosa è. Eravamo in 120 noi, eravamo in 120 che avevamo formato questa cooperativa, stavamo pagando a parte il cappello. Perché era di un certo Savino che abitava a Milano, infatti il presidente della cooperativa era andato a Milano e avevamo scoprato questo terreno, erano 1200 metri. Invece c'era subentrato tre demaniali con subentrato. E allora io dico, c'era più di lì che si arriva a fare il tribunale. Immagina che c'è stato il pari di tutta la comandazione, come noi eravamo in regola, registrato il tribunale anche a un notaio. Lì chi voleva denunciato? Il comune di Sorso voleva denunciato. E quelli che hanno preso in mano i documenti allora, che hanno messo le firme, solo loro l'hanno fatto sparire quelle qua, che ci hanno incasciato di là, ecco cos'è. Lo stiamo dicendo, la mafia, che era la mafia che hanno fatto quello che hanno finito. Però c'era anche la cooperativa del Banco di Sardegna, ragazzi. Anche allora hanno fatto allora, avevo fatto tre camere cucina e bagno, avevo fatto due cambi di legname da portatore, ragazzi, da Raizza avevo preso, ragazzi. Per carità, eravamo stati, però non avrei preso il successo. Ci ha preso di quasi 11.000 euro, 11 milioni ci ha preso. E poi la sovrintesa non me l'ha messo a fare niente perché dovevano cominciare a passare, perché hanno cominciato dalla marina di sopra a passare, perché non avevano superato niente. Cazzo, subire un cucinino per essere dalla campagna era casa a buio. Infatti. Io lì con tutti quanti voi, avrei fatto una denuncia grossa, avrei denunciato il comune di Sorso e quelli che c'erano allora lì, ecco cosa è, che hanno fatto le firme e coso, quando è un terreno che non si poteva toccare, e invece loro hanno fatto sparire tutto e che ci hanno incasciato di là, ecco cosa è. Poi ha fatto una denuncia a Manna, vi ha fatto. Avesse ne era nascito io a Pizzu, Era un mattello, però ha fatto stare in via, poi si mette il grande maniale, e ora fa più di 50 metri dalla spiaggia. Io ero più di 50 metri. Però c'era la grande maniale, capito? Per cui è tutto il cazzo, poi fai il sacco. Anche di ferro, io pensavo anche di ferro perché era fatta bene, guarda. Con il flusso, alla fine era tutto, quando era un sacco, il ferro non avevo io. Con una bella veranda, guarda. Purtroppo si è andata male, non mi sono, a piatti. Io ripeto, stanno denunciati, siamo stati anche condannati. Però che bene o male c'era, perché c'era il condono, e c'erano condonati. Si è arrestati, per abusivismo. Purtroppo, in chi vi... che ce n'è presa a domani, uno manzano ha cominciato a dire, beh, tutte le cabine sono tutte da lampa. Hanno fatto una strage, hanno fatto, eccolo già, hanno pulito il posto, hanno pulito. Ragazzi, infatti, adesso infatti stanno prendendo i terreni, fanno capire a pagamento, ha fatto un po' parecchio, già che vanno a mare, devi pagare. Non paga, ma insomma a farsi le mani, non si deve pagare pure per passeggiare, per andare in macchina. Chi lo manda qui? È tutto a pagamento, capisco? Vabbè. Ma va in mare, dici che fa tutti e tu. Vai a fa tutti. Devi pagare per entrare in mare. Nei effetti ne hanno rovinato tutto, hanno rovinato perché no, è una cosa impossibile, manco prima si poteva entrare, giravi con una macchina e te ne andavi, ah ma invece arrivi a un pezzo, e no, non concludi nulla, che ha fatto che si così, doveva essere a Caino, doveva essere, perché non è un posto fatto bene, ecco cosa è, non è posti fatti bene, no, non sono buoni a tenerlo, guarda te che un coso per andare per i cani, tu devi fare 50 metri a piedi, devi va, ah, sono tutte le fatte, tutte da base di Giusu, cioè, è vero che Giusu 5 è fatto di chi da maniera, buoni come tellaini. Certamente c'erano i vesti grossi che si mangiavano i chili, capito? Era per fare tutta la documentazione, capito? Ma si può immaginare che tutto quella rivisita, capito? E non passava niente, e poi avevo messo il spazio in cui va bene di voi. E vi rischiate pure, capito? Poi là, per carità. Poi la fanno in regola, le regole che sono la giamaniale non da va bene, la legge dice che era così e va bene, sta certo, così che tra i magnati si decidono. Giovanni, tanto che si disgraziati che c'erano prima a quel comune di Sorso, per carità, vogliono arrestati Vuriani. Fatene da Rosina che tutto e tutti quanti l'assessore che virano in quella gente lì. E vabbè. Lì poi questi pettini che hanno fatto hanno rovinato quanto c'è, hanno rovinato. L'ingegnere che l'hanno dato, devi darci che capo quadrato devi darci a fare questa cosa. Carità, manco in coso le venne. E poi devo ringraziare il macchio quanto di più giovane. Allora, se ho visto al futuro, certo penale, faccio il tribunale. Non ricordo il prezzo per il figlio. Fate il tribunale a quello di più con questo piccato. E non mi hanno avuto a fare il e lei ha avuto una condanna a tutto. Allora il tribunale di Sassari mi ha fatto un conto, andare a pressore di Sorso, andare a pressore di Sorso, lì mi ha detto che qua c'è la paga la multa a 800.000 lire. Allora, e qui ci ha avuto una condanna di 3 mesi, una cosa del genere. Cazzo, faccio boh. Però con questo fatto, secondo me non è stato condonato. Cosa ne so io? No, ma perché non me l'ha avvisato di questa denuncia che sta avete fatto? Certo, sono rimasta a bocca aperta in tribunale. Allora mi ha fatto il sogno, come c'era anche il condono, ho fatto il ricordo, sono andato in tribunale, ho questo foglio e già mi hanno rilasciato il caso penale. Si deve avviare i condonati. Infatti per me è casino, laggiù faccio. al comune giusto, ma sta che ci cosa sto. Sì. Allora erano sempre de cose, che entrava in Chivi, chi sul comune era gente che non sapeva nulla, non sapeva manco quante cose va, ecco cosa è. Sul comune era un comune di disperati, era. Sì, in Villa Dina, a me pare si rincasciava niente. Ma tutto niente, la cooperativa, quando ha saputo il suo passo volare. Andava direttamente come stagione che abbiamo a Milano, tutto che non abbiamo. Però è già stato di Parigi, per cui non interessava più tutti i documenti che avevamo della cooperativa, capito? E si doveva già l'ordine di mancare tutto e l'hanno fatto. Io lì con quelle fotocopie tutto quanto aveva fatto arrestare qualcuno, aveva fatto arrestare, ecco cos'è, perché hanno fatto tutto sotto banco, hanno fatto loro, non è fatto, ha filmato e chi invece delle goppe hanno fatto sapere che si è incasciato lì di Naedo, ecco cos'è, che si era incasciati, ne ha cavato tutto e non ha fatto sapere nulla, c'è qua, ma qua non c'è nulla di lì. Ragazzi, se ne è incacciato so, qualcuno dei cibetti grossi. Per quanto fatto il banco in Sardegna delle cooperative la città di lì, passando parecchi studi. Niente a fare, ma non so niente, era vicino alla regione che si aveva. Meglio che sì, purtroppo il comune di Giosso è maledetto, fa fare cose come ti ci devi, le fa tutte a casaccio, le fa, gli ha servito cosa ha arruinato, non se ne può più, non se ne può, di che ci hanno frusato, che hanno fatto. Io sono per i mangiatori. Che cose sono i mangiatori ragazzi, pregami di rasalvi ormai non mi aspettavo più per carità, però ormai già passato tutto così cacciamo ancora di più grazie a Dio e dato ma di più di più da fare e già visto la mia cultura sulla casa. Che me lo viene da stato qui a Santa Mona abbiamo già la vita, ma che cosa è fare la vita, una vita, ah? Ok, aspetta, mi sento un po' della signorina, ma qui ce l'ho messo, lui a fare questa, vabbè, e poi, là abbiamo recuperato il piccolo giallo di punto, e sono 10 milioni, quasi 11 milioni ho perso. Allora, iniziamo anche la campagna e poi la casa in campagna me la ma da voi faccio la bella giustizia della campagna e anche la miraggio. Però stato non la sua fatta, quindi sto dietro non si può fare. Giovanni. Tanto ormai in TV è tutto baciato, carità. Lì si vedono lo quattro bettini, hanno fatto una schifezza, hanno fatto. Infatti tutti i rosi gretegheni, tutta la marina di Giusso, tutti gretegheni, non vedi niente, anche non servi più a nulla, non servi. Però hai visto? L'idea di dire la torretta tutte quelle casottere di prima, quelle non ha toccato, erano macchine maniali, macchina, ma neanche finita, è un pasticcio, è un pasticcio, quelli non gli hanno buttato tutte le immagini, cazzo. A noi sì. Perché quello era tutto un coso, tutto diverso che hanno fatto. Hanno buttato tutte le cabine che erano quasi vicine al mare, ecco cosa è. Quello è, l'abbiamo costruito lì, hanno dato i permessi, che non dovevano costruire così. Insomma, non faccio quello che mi colore, va. A mare, poveretto, cazzo, a mare non si può entrare. Se vuoi entrare a mare, devi pagare. E lui si è tutto cagliato. Cazzo, se immaginate, cazzo, non si può andare a mare, cazzo. Devi lasciare la macchina lontano e andare a piedi, infatti invece che biandendi a chi si abbatte, che è uno schifo, infatti che non mi dicono maniera di giusto, magari se lo mangiano poco ha diritto. È una schifezza enorme che hanno fatto il comune di Giusso. Questi si hanno niente come ti hanno arruinato tutto. Per carità, comune di Sorso, non sappia cosa abbigliavo. Ma come si è stato disastro, gli hanno fatto una cosa più bella. Invece hanno arruinato tutto, hanno arruinato. C'era quattro bettini, prima era un bar, avevano venuta che nuda, manco un ristoro, beh. Così c'è gli imbecille di sindaco di Giosu, per carità. C'era Spieghe che aveva fatto tre locali che mi salvata avevano fatto, c'era un gelosetto al quarto vittime. Che aveva il bar ristorante, io me ricordo ancora, e un genovese che abitava tutti, certo, ancora mi ha messo, e lui figlio era CD puro, era, e faccia campeggi, lì io prima, con la venta, e io con fare capino, 2001, e tanti altri, tutti CD, certo. E l'anni, la regata, cazzo, pesca, gran carriera, allora il beccatore, mi dava con il beccatore e si voleva pure buttare a piccare a tutti. Andava in meno mazzano, cazzo, a voglia pesce, cazzo, a torre. Pesce poi, fresco, cazzo, aveva tutto il d'oro che lo via, cazzo, un bottone di vino, cazzo, andava in faccia di giorno, cazzo. E va in chivi, non v'è un ristoro, non v'è un bar, non nulla. E no, e più devi lasciare la macchina a volo, infatti più di 200-300 metri a piedi, andare in chivi. Allora, da poi fare il goccio di Rigani, che sei un bel drento, se. Non sappiamo cosa cazzo fa che c'è sul comune di Giusso. Tu si pensa alla mentalità che fanno, ecco cosa è. E vogliamo guppia pure un Monte Rosello, vogliamo guppia. Il canguro bianco era quel locale che aveva fatto quel presidente della regione in giù, canguro bianco, tre finiva, c'era uno sulla rotonda di Giussi e uno in quattro pecche nell'altro gira, o due era, forse era un. Tutti e due erano impastati, hanno fatto piazza fritta, lui si mette a fare il botto, quindi è un peccato, e ce l'ha tutto, di ritorno, questa va, senza i localetti che hanno fatto va, se devi pagare un munto di napa per mangiare un rinfrescato. Ah, non c'è nulla più al quarto pittine, no. non c'è più nulla, poi banda in chivi devi attraversare ed è tutto sabbia, prima per la basciarella va è tutto sabbia, non hanno i buridu nuda, non hanno i buridu, che facciano il schifo, facciano, così si arrugano lo sindaco di giusto da fatto a sabbia, caridaiga. Se tu rubi è tutto sabbia, ma ne va vera la basciarella prima, no? Con la sabbia si è tappato tutto e non si può manco basciare. Ma che è un locale, che noi abbiamo fatto una scena di scontriamo lì, ma non mi dà bene, siamo dentro al guardo. Il pescatore, non so se è ancora, ma un paio di anni fa è... Ancora questo locale di pescatore? Al terzo pettine c'è tutto, non gli hanno buttato nulla. Lì è rimasto, arriva la macchina fino a quasi al bar arriva. Ma no, al quarto pettine non c'è più nulla. Ecco cos'è. Al terzo pettine sì che c'è, c'è il bar, c'è. Ma quattro pettine, 6 anni non v'è nulla. Ma ancora basciarella vera, che sta piena di sabbia. Anni fa abbiamo fatto il compleanno, ho fatto lì, eravamo in 40 la notte, ha mangiato tutta roba di pesce, l'abbiamo mangiato, e siamo andati lì a cena la notte, e allora già eri quasi piccolo, e allora l'ho fatto perché il locale era il pescatore, prima aveva una cabina in legno e quanto. Se tu volevi andare a mangiare gli spaghetti e roba di mare potevi andare la notte, poi sei grandito quel locale, a base un locale enorme, e allora faccio la cena e adesso va bene, dalla volta io lo faccio ai salzoni, non so come sei, come sono ecco. Se vai avanti non c'è più nulla, non ne rampa tutto, bar, ristorante, canto vera, non c'è più nulla al quarto pittine, ecco cosa è. C'è rimasto al terzo, il quinto, il sesto, il settimo, e chi vi viso? Al quarto pittine non c'è più nulla. Ci sentiamo stasera effettivamente a Sodato, un fuggimento, ancora buon Faragosto in famiglia e ci sentiamo stasera. Ok, ciao, ti saluto. Sì, ok, ciao Gian Marino, ci sentiamo e buon pranzo. Ciao, ci sentiamo stasera, ok, ciao. Ok, ciao.